Siamo in collegamento con compagne e compagni dell'Assemblea antifascista contro il Green Pass di Bologna. E ci fa molto piacere sentirvi, vi salutiamo tutti e ci interessa tantissimo scambiare con voi delle opinioni, dei pareri sulla situazione, sullo stato delle cose. Tant'è vero che la prima cosa che vorremmo chiedervi è lo stato delle cose a Bologna. Cioè, cosa è successo a Bologna, ma soprattutto come stanno messe le cose adesso e che intenzioni pensate che abbiano rispetto alla Smart City, rispetto alla città dei 15 minuti, rispetto alle decisioni che sono state prese dal comune in questi mesi? La situazione bolognese è una situazione particolarmente avanzata. La classifica che viene stilata delle smart city vedrebbe Bologna al sesto posto, ma sta accelerando moltissimo anche perché a Bologna ci sono i principali attori di altre smart city. Per esempio, noi abbiamo l'Università di Bologna che è coinvolta non solo con il contributo d'accesso di Venezia, la Smart Control Room, ma anche con il supercomputer di Trento, per esempio. Quindi l'Università di Bologna la fa da padrona in questo momento. Non so se avete sentito le novità, l'Università di Bologna fa anche parte della Smart Mobility relativa ai convogli militari, vale a dire che stanno convertendo i treni passeggeri in treni per trasportare armi e cose del genere, gestiti da un'intelligenza artificiale suprema, cioè da un supercomputer che, a mio modesto parere, ma non so se è la verità, devo ancora informarmi, potrebbe essere proprio quello di Bologna, perché noi a Bologna abbiamo il supercomputer Leonardo, che è il secondo computer più potente d'Europa, di fatto, che chiaramente veicola tutte le informazioni che si raccolgono, presumibilmente nel nord Italia, se non in tutta Italia. Quindi Bologna ha questa eccellenza in questo momento, oltre a tutta una serie di altre bagarre, di altri tentativi eversivi come il 30 all'ora, che come, non so se avete seguito, se la questione del contributo d'accesso di Venezia, per esempio, sono simili nel senso che esistono le leggi ma non possono fare le multe perché sono basate sul nulla e non ci sono estremi per multare Sì, nessuno. abbiamo Ma dentro saputo. Bologna non si va a 30 all'ora, lo vorrei chiarire, c'è il limite a 30 all'ora, non lo rispetta nessuno e le multe non si fanno perché sarebbe impopolare prima di tutto farle perché a nessuno gliene frega, ma soprattutto non ci sono gli estremi per una cosa del genere, perché il codice della strada non prevede l'abbassamento dei limiti di velocità incondizionatamente ovunque. Altri tentativi del comune di Bologna sono prettamente tecnologici, a nostro parere. Per esempio, in questo momento c'è una campagna di abbattimento di alberi spaventosa a Bologna. Bologna non era una città messa male a livello di verde, anzi, ha molti parchi, ha piani alberati. Stanno cercando praticamente di abbatterli tutti. Qua abbiamo il Parco Don Bosco che vogliono disperatamente asfaltarlo per costruirci una scuola. Ripeto il concetto, vogliono abbattere una scuola e ricostruirla in un parco cementificandolo tutto, abbattendo circa 40 alberi ad alto fusto, quindi anche degli alberi pregiati, voglio dire, da un certo punto di vista, oltre al fatto che stanno lavorando al passante, l'allargamento del passante, cioè la tangenziale. Questo prevede altri disboscamenti per... Adesso non ho i numeri precisi sott'occhio, ma mi pare stiamo parlando di 600 in previsione. 600 ettari? Alberi. Alberi, 600 alberi. In questi 2 anni di giugno ci sono stati a 9 ettari di verde, 7 ettari di verde. In questi 2 anni abbiamo 2 ettari di verde cittadino. Perché abbattono gli alberi essenzialmente? Perché essendo che abbiamo il supercomputer Leonardo, in qualche modo i dati gli devono arrivare. Come arrivano i dati? Con il 5G. E noi sappiamo che gli alberi disturbano il 5G. Ora, la notizia naturalmente non la darà mai nessuno. Non sono nemmeno dati poi così ufficiali, perché anche sulla questione di quante antenne ci sono, dove sono, c'è un mistero, non c'è una mappatura ufficiale di tutti questi, di tutte queste antenne, ma i fatti parlano da soli. Se tu stai distruggendo tutto sistematicamente con varie scuse, c'è anche il tram, per esempio, non serve a nessuno, è un'opera inutile, prevede l'abbattimento di alberi e di tantissimi alberi sui viali, perché il tram deve passare sui viali. Insomma, è una situazione tecnologicamente molto avanzata. E quello che preoccupa molto è che il comune di Bologna tocca altre città, quindi in questo momento Bologna la sta facendo da capofila, perché i principali attori sono qui. Sì, c'è una premessa generale per ricordare, credo, come succede anche in altre città tecnologizzate in via di digitalizzazione spinta, e cioè che sembra che tutti questi provvedimenti, un po' qui, un po' fai tutti giù gli alberi là, fai la tranvia, metti 15, la città 15 minuti, crei un polo tecnologico, cioè, sembra tutte cose che siano tra di loro sconnesse. In realtà la cosa grave che noi verifichiamo qua è che alla fine, qua, come credo diceva tutte le altre parti con cui siamo anche in contatto, è proprio invece il progetto finale, che il progetto finale è proprio quello di costruire un ambito sociale e conviviale di vita delle persone sottoposto a un controllo spietato, cioè a una impossibilità a fuoriuscire dalle norme sempre più tipo credito sociale che poco alla volta vanno implementando. Adesso l'esperimento di Fidenza è uno piccolo di qualche anno fa. Fidenza praticamente hanno messo in piedi un giochino per cui al cittadino che acquisisce una casa popolare gli vengono dati 50 punti. Poi hanno stabilito delle regole secondo le quali, per le quali, se questo cittadino può, che ne so, fa un barbecue in giardino, invita le persone a casa senza averlo detto, oppure non usa i bidoni della spazzatura corretti, viene decurtato di punti fino ad arrivare alla possibilità di perdere anche l'assegnazione dell'alloggio. Quindi uno dice, questa è una cosa, correggiamo, che in realtà fa tutto parte di un progetto. Non voglio dire che sia stato, che ci sono state delle persone che si sono sedute a tavolino e lo hanno messo in piedi, ma il senso del progetto è proprio quello che ci sono delle convergenze socio-economiche e politiche che vanno in quella direzione, e questo è quello che è difficile da fare un po' capire anche alle persone. Dico un'ultima cosa rispetto a quello che diceva prima Fabrizio, che riguarda la questione dei tecnopoli. In Emilia Romagna ne esistono 11, uno per provincia, Bologna ne ha due, uno del Cilenca e uno nuovo che hanno costruito. Dentro questo tecnopolo c'è quello che diceva prima Fabrizio, cioè il supercomputer Leonardo. Tenete conto che uno dei progetti che starà dentro in questa sede è anche la questione, cioè circa la questione dell'ecologia, del risparmio di consumo del CO2. Quindi una finalità principale tanto raccontata è quella dell'utilizzo di questa macchina per poter migliorare anche le condizioni ambientali. Il supercomputer Leonardo consuma il consumo di energia elettrica del supercomputer Leonardo è pari alla città di Parma, 180.000 abitanti. Quindi questo tipo di contraddizioni, così come mettono limite di velocità ai 30 all'ora, mentre stanno costruendo un passante in più di 8 corsie nella tangenziale in città. Quindi ci sono anche questo tipo modalità che non è neanche, che sarebbe anche facilmente scalfibile, però entra in una logica edulcorata di comodità, di tutto finalizzato al miglioramento delle condizioni. persone. Invece, l'ultima cosa che devo mi taccio è, per esempio, questo tecnopolo che hanno costruito, che stanno costruendo e finiranno nel 2026, occupa 277 ettari di territorio cittadino, che sono praticamente due quartieri, San Donato e la Bolognina, e in cui la filosofia è quella di implementare questo luogo con tecnologia per l'intrattenimento e la conoscenza. Piste ciclabili, miliardi di per adesso hanno preso 1,5 miliardi. E dentro questo ci sta di nuovo la cosa importante per questi, secondo noi, secondo me, è che è quello il fatto che pubblico-privato oramai sono la strada che scelgono per poter finanziare, per poter funzionare e gestire questo tipo di grosse modifiche della vita dei cittadini comuni, cioè delle persone normali, perché poi alla fine il disastro si riversa immediatamente nelle condizioni della vita civile, sociale nostra. Sì, grazie. Abbiamo una curiosità in particolare su un progetto che ci risulta sia in sviluppo a Bologna, quello del gemello digitale cosiddetto. Sì. Se potete un attimo approfondire questo aspetto. Che cos'è? Non si vede. Questo è Bologna Gemello Digitale, la brochure del Comune, della Federazione Bruno Kessler, del Cineca, della Fondazione Innovazione Urbana e di Arma Mater, che sono i soggetti che sono praticamente innescati. Vai. Allora, ve la faccio molto breve. Sì. La questione del gemello digitale è essenzialmente un progetto che viene coltivato all'interno del supercomputer Leonardo, quindi è una costola del supercomputer Leonardo, che prevede di ricostruire in scala digitale l'intera città, calcolando i flussi umani, di traffico, gli edifici, eccetera. Questo, secondo l'amministrazione, dovrebbe aiutarci a risolvere problemi quotidiani, ma anche di grande impatto. Non so se voi sapete, a Bologna ci sono due torri, no? La Torre degli Asinelli e la Torre Garisenda. La Torre Garisenda è quella un po' più sortina e corta e sta crollando a pezzi. Dicono che il gemello digitale ci spiegherà come dobbiamo risolvere questo problema della torre. Vi faccio soltanto questo breve appunto che fa veramente scompisciare. È stato calcolato che per risolvere il problema da ingegneri normali bisognerebbe pagare 4,5 milioni di euro. Il Comune di Bologna ha organizzato un crowdfunding per questo, mentre per il supercomputer Leonardo vengono spesi 2 miliardi di euro, i soldi continueranno ad arrivare, perché naturalmente voi sapete che un supercomputer non è solo installare i server e consumare, come diceva Massimo, elettricità e acqua, i microchip da dove vengono. L'Unione Europea ha messo a disposizione più di 149 miliardi di euro per recuperare le risorse principali per costruire questi microchip. Stiamo parlando di depredare territori dall'altra parte del mondo per ottenere questi metalli e questi vari elementi per comporre i microchip. Questo è. E questo coso dovrebbe risolverci il problema di una torre che cade a pezzi, dei semafori che non funzionano e degli autobus che non riescono ad arrivare in orario, forse perché vanno a 30 all'ora. A questo punto potrebbe essere questo il problema. Il gemello digitale ha questo scopo. Sai, però il crowdfunding, per esempio, il crowdfunding è un coinvolgimento della cittadinanza, più che fare soldi, è una modalità per coinvolgere i cittadini. È il modo nuovo per dire che è una colletta. Esatto. Un modo moderno di dire facciamo una colletta, facciamo un crowdfunding. Volevo dire che rispetto al gemello digitale, mi è capitato di ascoltare un'intervista di Buganè, il nostro Max Buganè, lo chiamano così perché lui è un tecnocrate oggi è assessore al tutte queste robe digitali qua, durante una convention, peraltro importante, e peraltro, dopo casomai spero di ricordarmi, vi dico questa cosa qui. Beh, insomma, in questo luogo, durante questo intervento che lui era stato chiamato, è riuscito a dire che il gemello digitale, cioè che la tecnologia del gemello digitale, cioè della ricostruzione, per quello che riguarda il sottosuolo, del catasto, in quel caso lì parlava di quello, e del soprasuolo, ha permesso di essere efficienti nel salvare vite durante l'alluvione del Ravennate. C'è una roba impressionante, se tu vai nel Ravennate, questa gente non si può avvicinare perché la prendono a bastonate, per come l'hanno lasciata, per come hanno permesso che il territorio si devastasse, settimane, mesi, paesi sono rimasti anche svincolati e isolati. Per cui questo si vantava dell'assessore Max Pudenè, si vantava del fatto che attraverso la tecnologia prodotta usando il supercomputer Leonardo e assieme all'intelligenza artificiale, quindi la ricostruzione di questi ambienti, gli è stato permesso di arrivare a salvare persone in certe zone che se no non avrebbero saputo come fare. Certo. Rispetto alla Bologna dico scusate le zanzare adesso che rispetto alla questione di quanto Bologna in realtà adesso non è che voglia fare del campanilismo negativista, non so come chiamare, ma l'hanno presa proprio come fulcro di ecco. Progettualità. Sì, ti interrompo, volevamo infatti, credo che stavi per passare a questo, volevamo anche chiedervi infatti chi si sta opponendo, diciamo, nella vostra città a tutti questi progetti e quanta consapevolezza c'è fra gli abitanti su Città dei 15 minuti, Smart City, anche diciamo collegando tutti i cambiamenti che ci sono attualmente. Questa è una domanda che vedi, non sa nessuno sa rispondere, perché cioè, siamo tutti imbarazzati, perché il problema anche lì è di misurare la capacità di uno fare capire e fare comprendere quanto questa cosa non è un aspetto secondario delle prospettive future. Questa cosa c'entra anche con la guerra, adesso non voglio entrare in merito a questo, per noi questa cosa c'entra anche con la guerra. Questo sarà il modo, secondo noi, adesso apro una parentesi, la richiudo, visto che facciamo un'iniziativa settimana, fine settimana su questi temi qua, cioè questo sarà il modo per controllare la guerra interna dei cittadini del prossimo futuro rispetto alla guerra esterna, quella combattuta reale, dove anche lì la tecnologia la fa da padrone. E quindi secondo noi l'argomento è molto importante. Quanto c'è resettività su questo tipo di problematica, dobbiamo dire molto poco, sinceramente molto poco. Anche noi forse non siamo bravi abbastanza, non riusciamo a trasmettere sufficientemente riflessioni. In città, noi che facciamo parte di questo, come raccontavamo a Firenze, di questo coordinamento dove ci sono varie anime molto diverse anche tra di loro, comunque in quell'ambito, in quello spazio, un po' di sensibilità c'è, e abbiamo fatto fino adesso 3 iniziative pubbliche, anche, devo dire, riuscite, partecipate, la gente c'era, però poi il dopo è difficile. Adesso ci manca la quarta, che è quella che 3 iniziative sulle smart city e le relazioni con gli aspetti della vita delle persone. L'ultima sarà riguardo all'uso della tecnologia applicata alla guerra alle armi, con un focus sulla Palestina, anche perché sono usciti molti lavori dei nostri compagni, come conosciamo, su questa tematica. Quindi poi non so se qualcuno, anche le altre compagne qua. Beh, diciamo che il problema essenziale è che si ragiona sempre a scatole stagne, no? Si ragiona sulla guerra, ma tecnologia che utilizzano, l'intelligenza artificiale che utilizzano a casa nostra, non riescono a collegarla con quella militare che esercita un potere in Palestina. Non è un caso che il contributo d'accesso di Venezia con i varchi, con il fatto che tu devi dire chi sei, devi lasciare i tuoi dati per entrare in città, eccetera, sia molto simile ai varchi di fatto che ci sono in Palestina e in alcune città. Infatti noi nell'iniziativa di domenica abbiamo mandato un filmato, un Red Wolf si chiama, che è sul, sul sistema di riconoscimento facciale che usavano in Palestina, cioè usano in Palestina, ma il documentario è prima del 7 ottobre. Quindi prima del 7 ottobre la situazione che viene descritta era proprio all'ordine del giorno e una cosa che mi ha colpito tantissimo, al di là del fatto che la popolazione è monitorata in qualsiasi istante della vita, proprio da quando si sveglia a quando va a dormire anche durante la notte, ma quello, il tipo di sensazioni che vengono instillate in una popolazione che ha questo tipo di controllo, quindi non sicurezza che dicono loro, ma grande insicurezza, grande angoscia di vita, perché uno non sa mai quello che può dire, quello che non può dire, quanto uno viene ascoltato, quanto non viene ascoltato, e una grande incertezza, proprio mancanza completa di fiducia nel presente e nel futuro. Per cui questa situazione, che è una situazione di controllo tecnologico e digitale, compagnia bella, però ha un grande impatto, è una grande trasformazione della vita delle persone. Sì, sì, ma è collegato anche a quello che diceva Massimo sulla carta dell'assegnatario di Fidenza. Sì. Tutti gli esperimenti delle carte appunti. È perché qua in Europa, non essendo in Palestina, qua l'apartheid non è di casa dal 1967, no? Ci dobbiamo arrivare piano piano. Qua dicono che siamo in una condizione nella quale dobbiamo garantire la sicurezza stradale, dobbiamo migliorare il funzionamento degli enti pubblici, e quindi non è un caso che nel documentario, presumo il documentario di cui state parlando voi, è quello in cui si illustra anche che soprattutto in prossimità di scuole e chiese, sì, questo monitoraggio è molto più invasivo. Qua è uguale, perché in prossimità di scuole, chiese, ospedali c'è una monitorizzazione della società grossa. Qui dicono che per mantenere la sicurezza, ovviamente per migliorare i servizi, per fare in modo che non ci siano incuri stradali davanti all'ospedale oppure che davanti alla scuola non si vada troppo forte, eccetera, ma di fatto tu stai andando nei posti dove le persone si concentrano di più e stai esercitando un'intelligenza artificiale a riconoscerle. Il Red Wolf funziona nelle cabine e ai varchi, non funziona ancora in strada. Devono arrivarci a quello, e per arrivare a quello le telecamere biometriche, l'intelligenza artificiale si deve esercitare, e si esercita soprattutto nei posti dove ci sono tante persone, perché deve essere messa, l'intelligenza artificiale si deve confrontare con situazioni complesse, non semplici. Certo, qui a Roma hanno installato, ma non sono attive, delle telecamere nella metro, nelle metro e sulle banchine delle metro, con il riconoscimento di atteggiamenti, il riconoscimento facciale, il riconoscimento di atteggiamenti non conformi, che poi mi devi dire che cosa significa non conforme, no? Quello di Gualtieri è un comportamento non conforme. Esatto, bravissimo. Quindi la strada è quella, cioè voglio dire, oltretutto quando un'attrezzatura viene messa e installata, poi il garante della privacy dice che non si può usare, ma per quanto dirà che non si può usare? Quando il prossimo cavillo potrà permettere l'uso di questa, cioè è solo questione di tempo, no? E quindi man mano vengono trasferiti questi meccanismi proprio di controllo dei comportamenti, perché qui non si tratta di verificare dei reati, qui si tratta di identificare dei comportamenti, che è una cosa completamente diversa, no? Come nelle registrazioni dei lampioni intelligenti, gli algoritmi registrano la parola chiave, no? Tu dici, non lo so, Israele non so che cosa, zap, e immediatamente l'algoritmo è tarato su quella roba lì e registra quella roba lì, no? Per cui l'insicurezza quotidiana nel poter non poter dire le cose, nel poter non poter neanche esprimere con gli amici al bar un discorso, provoca una popolazione sempre impaurita, sempre sul chi va là, sempre in angoscia per quello che fa, per quello che dice, certo. Poi c'è un problema cioè rispetto alla questione di prima del perché le persone anche fanno fatica a cogliere, perché noi stessi non siamo consapevoli di quanto gli strumenti digitali che noi usiamo quotidianamente siano delle spie. Sono oggettivamente delle spie, dopodiché può darsi che queste spie sono delle cellule terroristiche dormienti che possono essere in qualunque momento attivate. Mi riferisco ai cellulari, alla tecnologia sempre più invasiva, sempre più ci rendono sempre più inevitabile l'utilizzo di questi strumenti per la vita. Tra un po' non potremo avere il denaro, non potremo farci curare, non potremo salire in auto, non potremo muoverci senza questi strumenti. Ma questi strumenti noi stessi abbiamo interiorizzato attraverso la comodità e attraverso la apparente facilità di uso, la semplicità con cui possiamo finalmente comunicare da Bologna al Brasile. Possiamo fare questa cosa che stiamo facendo adesso, pur con uno strumento più controllato, ma comunque sia che utilizza la tecnologia che permette. Quindi questo è un problema in più, nel senso che la coscienza, l'autocoscienza, diciamo, fa fatica a costruirsi, a ricostruirsi, soprattutto quando attraverso questi strumenti in prospettiva rappresenteranno la vita, cioè veramente la vita, cioè il quotidiano. Sì, in India l'applicazione di cioè in India sono morte delle persone perché non riuscivano attraverso l'applicazione prevista che si chiama Dia a farsi arrivare il cibo nella comunità perché non c'era la connettività e sono morte dei bambini, sono documentati. E in India adesso non dice vabbè l'India, la prospettiva è questa, quindi questo è un problema in più, cioè gli strumenti non sono solamente il nemico, questo voglio dire, ecco, la tecnologia troppo. Io su questo, sulle prospettive di mobilitazione e su diciamo il senso degli strumenti, vi volevo chiedere oppure condividere una riflessione che stiamo un po' aprendo, perché visto che siamo d'accordo, l'avete detto anche voi, che il problema qui è il progetto politico e quindi far passare diciamo una visione d'insieme di tutte queste trasformazioni che sembrano così puntuali e sconnesse tra di loro, allora siete arrivati anche voi giustamente al terreno della guerra, anche come appunto, cioè al tema della guerra anche come terreno in cui provare a riportare a sintesi, cioè o comunque a portare ad evidenza questo progetto, no? Allora questa, cioè insistere, non lo so, io me lo sto chiedendo e ragiono ad alta voce, cioè potrebbe essere effettivamente la tendenza alla guerra e la fase di guerra, l'ultima, no, della militarizzazione, l'ultimo accordo Leonardo Ferrovie dello Stato sulla militarizzazione di tutti gli asset delle ferrovie, e quindi cioè, si sta mettendo a terra questa logistica anche di guerra che passa chiaramente subito attraverso le infrastrutture tecnologiche, ma data questa analisi di contesto, diciamo, e assunta questa analisi di fase, rispetto alle prospettive di mobilitazione, può essere, diciamo, visto che la guerra chiama in causa, insomma, trasformazioni molto dirette individualmente, cioè se incominciano ad arrivare le cartoline per la leva militare, ci ritroviamo di nuovo un po' come con il Green Pass, no? In cui effettivamente potrebbe esserci una reazione più diffusa perché si sta andando a toccare il corpo. Spero che non ci arriveremo là, incominceremo a fare qualcosa prima, però questo come linea di tendenza ci fa pensare, no, che alla guerra sia, visto che ha aspetti economici, esistenziali, produttivi, tecnologici, riesce a riassumere le tendenze di questo periodo, può essere un terreno di lotta. Magari su questo terreno si riesce anche, vista la tragicità, non so come dire, del conflitto in gioco, a superare un grosso ostacolo alla mobilitazione contro la Smart Cities, che sono tutte le forme di associazionismo e collaborazionismo che stanno molto radicate sul territorio, cioè tutti questi impianti e queste trasformazioni delle città sono resi possibili anche da anni e anni di sperimentazione dei patti di collaborazione. Bologna è un caso di scuola, no? Cioè, tutti i giuristi stanno con l'osservatorio, diciamo, là, il collaborazionismo da voi è, almeno accademicamente, diciamo, è una culla piuttosto commentata, e questo è un ostacolo. Forse insistere sulla gravità, diciamo, e sul piano inclinato in cui siamo riesce a farci uscire anche da questa logica dell'orticello, che però ha molto attecchito. Quindi noi, per esempio, a Roma sappiamo che ci sono alcuni territori, visto che questa città dei 15 minuti identifica delle zone, ci sono molti territori in cui c'è una forte identità popolare che, come dicevamo l'iniziativa l'altro giorno, potrebbe essere un volano di, cioè potrebbe essere un motivo di resistenza, e invece ci sono dei territori in cui si è trasformata già, si è molto compatibilizzata questa identità popolare. E quindi volevo sapere se anche voi, più che semplicemente nominare il problema, cioè riconoscere che il collaborazionismo ci ha tagliato abbastanza le gambe fino adesso, avete riflettuto su cosa fare per superarlo? In realtà sì, però vorrei fare prima una domanda su Roma. Io seguo molto gli sviluppi della ZTL, no? 207 km quadrati in cui vengono messi fuori circolazione 500.000 di veicoli. Com'è possibile, per esempio, in questo caso, che le persone non siano ancora scese in piazza rivendicando il diritto sacrosanto? Perché i busillis sono questi, addirittura quando ti vengono a toccare la vita quotidiana, cioè senza la macchina, ma come vai a lavorare? Come fai a portare via a scuola? Ma come fai a avere la vita, soprattutto a Roma? Io ci ho vissuto a Roma, c'è un puntello pazzo, non è la città che tu prendi l'autobus. Perché prima di tutto usano il sistema della rana bollita, vale a dire un pezzetto alla volta, far passare un provvedimento limitato alla volta, poi magari ritirarlo, però ti abituano all'idea che in questa città prima o poi non si entrerà. Vale a dire, allora, per adesso hanno fatto questa enorme fascia verde con 51 varchi, che però in cui i varchi sono attivi, cioè monitorano le macchine che entrano ed escono, però non ci sono multe, provvedimenti e compagnia bella. E già questo è un passetto della rana bollita, nel senso che per adesso non fanno niente, però la fascia verde c'è, esiste, i varchi ci sono, e prima o poi entreranno in funzione, hanno detto il 1° novembre del 2024. Già l'anno scorso hanno detto il 1° novembre del 2023, poi, visto che c'era stata un po' di maretta, poi non volevano che ci fossero intoppi rispetto ai lavori per il giubileo, e quindi hanno spostato di un anno, no? Per cui c'è questo sistema che taglia le gambe a tantissimi modi per reagire, perché tutto sommato il cittadino dice vabbè sì, però entrerà in vigore chissà quando, la faranno, hanno detto che la facevano, poi non la fanno più, ma magari neanche il 1° novembre, come fanno? E quindi noi ci abbiamo provato l'anno scorso, era l'anno scorso, a prendere di punta questa cosa, ma è molto difficile, perché finché non ci sbattono direttamente il muso e vedono che non possono entrare sul serio, questa cosa non si mette in moto. L'unica cosa è che quando si metterà in moto sarà troppo tardi, perché ci saranno tutti i varchi già precostituiti, tutti i sistemi di polizia, perché anche qui adesso stanno costruendo una centrale operativa dietro il Campidoglio, che dovrebbe raggruppare man mano, adesso è della polizia urbana, dovrebbe raggruppare tipo Venezia tutte le polizie, i vari tipi di controllo della città, e questo man mano lo stanno facendo con una velocità molto alta, e fanno queste operazioni ora qua, ora là, a macchia di leopardo, la cittadinanza lo sa, non lo sa, non collega. E questo è un grosso strumento che hanno per le mani. Io aggiungerei anche una cosa, che a Roma, diciamo, forse per peculiarità sua, c'è molto affidamento sull'intermediazione di soggetti appunto intermedi, cioè politica, partitini, per cui le manifestazioni che ci sono state, che effettivamente hanno anche prodotto un qualche arretramento dell'iniziativa, però hanno visto veicolare soprattutto raccolte di firme, per cui la gente ti chiedeva ma dove firmo, anche di iniziative auto-organizzate, quindi c'è un po' questa, diciamo, da una parte affidarsi, da una parte non credere che le cose si possano effettivamente realizzare, perché Roma è tanto grande, è tanto complicata, e hai visto mai che riescono a fare una roba del genere, e quindi si va avanti un passettino micro alla volta. L'unica cosa è che Roma si presta, nonostante sia molto grande, si presta a fare tante città dei 15 minuti, perché i quartieri sono diversificati, hanno una forte identità, e tutto dipende da quello che diceva Margherita: se l'associazionismo del quartiere starà dalla parte dell'antagonismo o starà dalla parte del potere. Dipenderà moltissimo anche da quartiere a quartiere. Sono convinta che ci sarà una risposta diversa a seconda del quartiere, a seconda di un altro. Però la situazione non è facile affatto, anche perché Roma ha un problema che è, allora, quello del Giubileo da una parte, quello dei palazzi del potere dall'altra, perché sicuramente ci sarà il tentativo, già adesso c'è la ZTL in centro, anche di diversi tipi, no? La ZTL dell'ambito dell'Ansa del Tevere, del Tridente, le zone, la Roma barocca, tanto per dare un'idea, poi ci sono anche Trastevere, c'è anche Monti, c'è anche Testaccio, che sono zone sottoposte a ZTL notturna e l'altra diurna. Però il problema è che sicuramente la zona dell'Ansa del Tevere, quella rinascimentale barocca, farà la fine di Venezia, come con un accesso non tanto alla milanese a pagamento, quanto proprio col Green Pass: chi entra entra, chi non entra non entra. Così loro hanno anche il grande vantaggio di allontanare la gente dai luoghi a rischio, no? Per cui quell'area lì sicuramente sarà tipo Venezia: tu dovrai dimostrare che puoi entrare, non è un problema di pagare, è un problema che entri perché studi, entri perché vai, abiti lì, entri via, e gli altri non entrano. Già, cioè, la strutturazione già è di questo tipo, ecco. Allora, noi siamo molto contenti di questa chiacchierata, tantissimo. Ci abbiamo risposto alla domanda. Esatto, lo stavo giusto. Guarda, io ho buttato questa domanda, però. Non so se anche le nostre compagne hanno da dire qualcosa, però mi sembra che... Io volevo solo dire che la questione è difficile anche perché è stato fatto un lavoro precedente lungo e pervasivo sulla sicurezza, la parola magica. Infatti da molte persone è richiesta la sicurezza. Stiamo vedendo un'enorme diffusione di telecamere dovunque. È il mito della telecamera che ti aiuta a non subire offese, no? Anche se nessuno, cioè palese, nessuno si rende conto che la telecamera sì ti aiuta forse, ma non necessariamente, perché non è contestuale. Cioè non è che nel momento in cui tu stai subendo un danno c'è qualcuno che interviene, è sempre solo successivo, quindi ha un effetto relativo. Però anche le persone, diciamo privatamente, non fanno altro che installare continuamente telecamere dappertutto. E negli altri paesi minori, sta succedendo lo stesso, i comuni che installano quintali di telecamere dappertutto. Quindi al di là anche delle grandi città si sta creando questo osservatorio continuo anche in tutti gli altri posti geografici della penisola. Però ripeto, è difficile che le persone abbiano una consapevolezza, perché si è lavorato e la richiesta di sicurezza parte da loro. Quindi questo è un problema molto importante. Infatti anche tu, quando fai degli incontri, se vai a parlare devi stare molto attento, perché nel momento in cui dici ma la sicurezza eccetera metti in dubbio, scatta in loro questo principio conservativo, diciamo, di propria tutela e richiesta di sicurezza. No, la domanda dicevi che devo fare un'errata corrige, non so quello con l'audio come fate. Dalla Foga ho rinominato, forse una questione di neolingua, il nostro assessore, che non si chiama Buganè ma si chiama Bugani. Ah. Ma chiedo scusa, ex 5 Stelle, comunque fa assonanza con il nostro assessore Badanea. È per quello, forse. Comunque, veramente per rispondere alla domanda, secondo me sì, nel senso che collegare la guerra alla smart city è una buona idea. Ma dato che stiamo parlando di un argomento estremamente sconosciuto, tecnico e abbastanza complesso, la cosa importante è quella di partire sempre dall'intelligenza artificiale. Perché nel momento in cui collegamento guerra e intelligenza artificiale è molto semplice e anche abbastanza logico, no? Se stiamo parlando di guerra intelligente, mandano dei droni comandati da un'intelligenza artificiale, se c'è un sistema che immagina gli obiettivi militari, per esempio in Palestina inventa 39.000 obiettivi militari al giorno, il costo per questo è, sì. Nel momento in cui tu crei questo collegamento tra intelligenza artificiale e guerra, il discorso è semplice. È più complesso mettere l'intelligenza artificiale a casa tua dicendo le telecamere tu dovresti reagire a questa cosa perché non è normale che tu vieni utilizzato come cavia per una serie di tecnologie che servono per la militarizzazione non solo di un altro paese ma poi anche del tuo. Noi stiamo attenti su questo fatto perché, come diceva Angela, subentra questo meccanismo di protezione, questo blocco mentale per cui oltre a dirti la cazzata non ho niente da nascondere. Essenzialmente dicono anche, sono convinti che le città non siano sicure, che l'intelligenza artificiale possa aiutare. Se riusciamo a convincere che l'intelligenza artificiale non fa questo perché ha un altro scopo, già abbiamo fatto un passo in avanti. E poi una cosa rispetto a quello che diceva Margherita, ma mi ha fatto venire in mente, sì, anch'io penso che quando la condizione della guerra sarà sul corpo delle persone materiali, cioè sarà materialmente visibile sul corpo, sulla mancanza di cibo, sulla sicurezza vera di dove non prendere la bomba, di tagliare in testa, forse la percezione sarà diversa. Devo dire però che le malattie che ci hanno indotto, o false o pseudomalattie che ci hanno indotto, non è che hanno prodotto questo effetto nella popolazione. Il Covid, l'operazione Covid racconta tutta un'altra storia, eh? Cioè racconta che ai figli non sarebbe, che i genitori non avrebbero mai, cioè che la paura indotta neppure se ti obbligano a iniettarti una sostanza sconosciuta che tutti sapevano, con la cosiddetta, nonostante quelle deprivazioni, nonostante questo, la popolazione, almeno nella nostra esperienza, noi abbiamo, cioè noi siamo nati come assemblea, il primo obiettivo è stato quello di riconoscersi come persone ancora sane di mente che riuscivano a parlare razionalmente con altre persone sane di mente, compagni e compagne comprese, qui, e non è mica finita. Quindi c'è, cioè, questo tema, io anch'io penso che c'è un livello oltre il quale c'è la nostra umanità, la nostra mescolata, la coscienza politica che abbiamo, insomma, deve produrre degli effetti. Però mi ricordo anche, perché sono già abbastanza attempato, che negli anni 70 gli operai e gli impiegati furono capaci di abolire la scala mobile attraverso un referendum mediato dai sindacati allora di massa. Allora, quindi, cioè, non so come dire, dobbiamo un pochino, se secondo noi, secondo me, il compito che forse ci possiamo dare è intanto vederci più spesso, perché questo credo che aiuta a pensare a fare qualche cosa insieme anche con come si riesce, e soprattutto cercare di promuovere il più possibile nei luoghi, come dicevate giustamente, come diceva Margherita, ma anche Elisabetta, tutti sono, nei luoghi dove ci sono comunità dove la partita non è ancora persa, ecco. Qui da noi questa partita qui, perché giustamente, come diceva Margherita, noi abbiamo questo collaborazionismo che è storico nella città, nell'Emilia Romagna, è proprio è messianico qua, cioè, qui abbiamo un problema, se diciamo che l'idea secondo me è corretta, dove ci sono dei nuclei, delle comunità, perché il problema è quello proprio, la comunità, c'è, cioè, un ragionamento di comunità, non solamente di presa del potere, tra virgolette, non so come cazzo dire, insomma, però per cui credo che forse, ecco, la visione positiva è questa, cercare luoghi in cui sia possibile piantare questi cazzi di alberi, che siano quelli materiali e che siano anche quelli della coscienza politica, della prospettiva, insomma. Grazie tantissime di questo scambio, facciamolo più spesso, vediamoci il più presto possibile, e quindi un grande abbraccio a tutte e tutti, grazie compagne e grazie compagni, alla prossima, ciao. Ciao.